Italia in controluce. Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana. Marghera, una strada divide in due il petrolchimico e va dritta verso la laguna che vedi da lontano quasi fosse un miraggio. 1, 2 chilometri, forse 3. Passi accanto a capannoni vuoti, ciminiere inattive, vecchi impianti bloccati dal tempo e dalle mille battaglie. Il racconto di Silva Menetto. Porto Marghera non ha paura di cambiare, ma chiede garanzie. L'attuale crisi economica in questa che è una delle più grandi aree industriali d'Europa, che affaccia sulla laguna ed è a pochi chilometri da Venezia, non ha fatto che peggiorare una situazione che già era di profonda sofferenza. Il neosindaco Giorgio Orsoni, in campagna elettorale, aveva detto che quello del polo industriale veneziano era il cuore di tutti i problemi della futura amministrazione. Una delle prime mosse della giunta comunale è stata proprio quella di riunirsi in via straordinaria a Porto Marghera. Tutti gli assessori schierati in prima fila nel capannone del petrolchimico, il luogo simbolo delle lotte operaie del nord-est. Sul palco i rappresentanti sindacali, alle loro spalle i murales storici dei primi anni Ottanta, quando la crisi dei grandi gruppi della chimica ebbe inizio e non si è più arrestata. Eppure, nel futuro industriale di Venezia, anche il neo sindaco Orsoni continua a credere. Sono convinto che l'industria a Venezia debba rimanere però un'industria rinnovata, compatibile con un ambiente qual è anche quello veneziano. Io spero di riuscire a dare un'impostazione nuova, diversa, al modo di affrontare questi problemi. A seguire la visita della giunta al petrolchimico sono arrivati centinaia di operai, molti dei quali cassintegrati o in mobilità. C'erano anche pensionati e disoccupati. Lavoravano negli impianti del caprolattame, alla Dow Chemical, alla Sirma. Porto Marghera ha cominciato con gli altri, la Sirma, siamo noi sul tetto, abbiamo fatto strage, abbiamo risolto qualcosa, perché sono 2 anni che sto a casa, in mobilità con un assegno di 700 euro al mese, che significa niente, perché ora che ho pagato le bollette e affitto, con quei mi devo vivere. Una che ha sempre lavorato, 32 anni in Sirma, mi ritrovo alla mia età, mi ritrovo a questo livello. Sono un papà a tempo pieno in cassa integrazione, una babysitter costa soldi, ho deciso di portare la figlia. Di giunta, ma di sindaci, di presidenti della provincia ne sono passati tanti di personaggi qua in 10 anni, ho visto, e io ormai ho poca fiducia nelle istituzioni. Quando sono stato assunto io nel 1987 all'incirca lavoravano 7.000 dipendenti diretti e altri 7-8.000 dipendenti indiretti. C'erano sale mensa con code interminabili, addirittura si faceva fatica a mangiare nel tempo previsto. Adentrarsi in quest'area industriale di 600 ettari affacciata sulla laguna sembra oggi un viaggio nel cimitero degli elefanti. 3/4 degli impianti sono chiusi o in fase di dismissione e oltre al problema occupazionale c'è quello enorme delle bonifiche delle aree. L'ultima proposta in ordine di tempo l'ha fatta il presidente dell'autorità portuale Paolo Costa per sfruttare le banchine in attività logistiche accollandosi le spese di bonifica e utilizzando nell'operazione gli operai del polo chimico. L'idea è di ottenere le autorizzazioni, spero in maniera un po' più celere, di controllare che queste siano e soprattutto di farlo utilizzando persone che siano esperte del sito e quindi in qualche modo alleviare la fase intermedia in cui la gente è in cassa integrazione, facendo in modo che coloro che dico tra questi riterranno o potranno dare una mano, che siano coinvolti fin dall'inizio nell'attività di bonifica. La proposta è stata accolta con favore da Comune e Provincia di Venezia e anche dal governatore Luca Zaia, ma gli operai del polo industriale di Marghera si dimostrano ancora scettici. Il progetto del porto tutti lo vedono bene, ma deve essere un progetto che però crea posti di lavoro. Se i posti di lavoro si creano fra 10 anni, inutile dirlo, i lavoratori sono già stremati adesso. Io aspetto la riconversione di questo polo industriale, ma finora ho visto che riconversione equivale a chiusura e non si riconverte niente altro, per cui rimangono solo le macerie e non si è creato nulla. Davanti al cancello della Montefibre è comparso alla vigilia del 1° maggio un muretto. Lo ha costruito un gruppo di operai che sta presidiando la fabbrica contro la chiusura definitiva dopo 2 anni di cassa integrazione. Al sindaco e alla giunta è stato fatto vedere anche questo. Montefibre se n'è andata licenziando i lavoratori, chiudendo la fabbrica e massimizzando ovviamente il guadagno con la vendita delle aree. Questo è il muro che i lavoratori hanno eretto e che continueranno a tenere in piedi per difendere gli impianti, che sono l'unica certezza che oggi hanno. Il viaggio della giunta comunale a Porto Marghera si conclude con un incontro con i vertici locali di Eni che stanno trattando proprio in questi giorni con la multinazionale del Qatar, l'Aramco, interessata a rilevare gli impianti della Vinyls. L'operazione consentirebbe di salvare il posto di lavoro agli operai di Porto Torres, Ravenna e Marghera, che nell'attesa si augurano che la visita della giunta sia stata l'inizio di un percorso per ridare vita a tutto il polo industriale veneziano. Non deve essere una gita scolastica, prima perché anche se la giunta è nuova, di nuovo su Marghera non c'è nulla. A noi serve che sia invece un'uscita operativa e uno stage per la giunta. La giunta deve incominciare a fare le cose. Adesso servono i fatti. Italia in controluce. Sembra la campagna, ma è il Trentino. E così, tra le pagine di Solo Fango, pubblicato da Verde Nero, un noir scritto da Giancarlo Narciso, che appare la regione del nord è ritenuta all'avanguardia dal punto di vista ambientale. Alessio Maurizi ha intervistato lo scrittore. Giancarlo Narciso è uno scrittore di romanzi di spionaggio e gialli, vive in Trentino, terra che gli ha dato lo spunto per una trama che attraverso la finzione descrive fenomeni tremendamente reali. Io ho scelto di abitare il Trentino perché ero profondamente innamorato di questa zona. L'entroterra del lago di Garda è uno dei posti più belli che ho visto ed ho visto massacrare gli ultimi 15 anni e trasformare in una periferia industriale urbana di qualsiasi città europea. Non ha senso, quindi avevo questa indignazione profonda perché mi toccava da vicino e quindi l'idea di poter scrivere quello che scrivo di solito nello stesso tempo denunciando quello che avviene qui mi tentava parecchio. Solo Fango, un romanzo, quello che tu hai scritto, che oscilla tra realtà e finzione. Qual è la trama che racconti? E sono partito da una discarica che hanno costruito sopra la mia tesi, una valletta idilliaca. E questa discarica aveva dei movimenti sospetti, camion che arrivavano di notte ma è di giorno, hanno prelevato dei campioni, il risultato che le analisi precedenti erano state falsificate, c'erano tracce di sostanze tossiche, insomma la discarica è stata sequestrata dalla magistratura. Sono andato a indagare, ho fatto una ricerca, ho scoperto che il direttore tecnico della discarica a suo tempo era stato l'unico dipendente provinciale condannato per la tragedia di Stava, dove morirono 268 persone. Questo fatto ha fatto scattare subito la mia fantasia e ho deciso di creare un collegamento, raccontare quello che era successo a Stava, rendendo il movente di un crimine, questa è la parte di fantasia, il crimine commesso oggi. I reati ambientali, tutto quello di cui tu ti occupi, sono un po' la nuova frontiera, no? Mi viene da dire, in questi anni, dei vari business e anche degli interessi delle varie mafie. Come mai c'è questo grosso interesse attorno all'ambiente? Probabilmente perché colpisce tutti, cioè una rapina in banca, la tratta delle bianche, lo sfruttamento delle miniere in paesi del terzo mondo ci tocca da lontano. L'ambiente ci viviamo, soprattutto gente che vive fuori dalle città. Vedrà il mondo alterato ogni giorno da costruzioni colate di cemento molto spesso inutili. Io non mi riferisco alle ferrovie, per esempio, non sono contrario alle ferrovie o alla realizzazione di opere di pubblica utilità, ma quando vedo per esempio questo proliferare dei capannoni industriali che restano poi regolarmente vuoti semplicemente perché ci sono meccanismi perversi di finanziamento pubblico, la cosa mi secca parecchio. C'è anche, e questa è un po' anche la peculiarità del tuo racconto, un mito che cade, no? Quello del Trentino come regione ambientale per eccellenza, dove addirittura si sperimenta, si fanno cose all'avanguardia, invece vengono fuori un po' le stesse cose che si scoprono quotidianamente con magari più clamore nelle regioni del sud Italia. Purtroppo buona parte di quello che accade in Trentino è window dressing, cioè è promozione turistica. Gli avvenimenti soprattutto di questi ultimi 6 mesi stanno dimostrando che in Trentino accadono cose atroci per quanto riguarda l'ambiente, mi riferisco per esempio alle discariche della Valsugana, l'acciaieria della Valsugana, dove pare esistano tracce di diossina centinaia di volte superiori alla norma, consentito. Perché la scelta della narrazione anziché la forma del saggio, per esempio, per raccontare questo tipo di fatti? L'utilizzo della narrativa per raccontare un fatto reale consente, ha una marcia in più rispetto semplicemente al saggio. Io sono convinto che molte persone non leggerebbero mai gli atti del processo, semplicemente un resoconto sterile ma preciso di quanto è successo a Stara. Usando il meccanismo del thriller o del noir, da un lato non posso raccontare tutto quello che è successo, però posso fare una sintesi e distillandola, dilatandola all'interno del romanzo, io posso raccontare buona parte di quello che è successo utilizzando l'interesse che il lettore ha per la vicenda. Cioè io leggo il giallo per sapere come va a finire, chi è ucciso, chi è il criminale, però nello stesso tempo io vengo aggiornato, vengo informato di quello che è successo senza farmi fermare dalla noia. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate sul nostro sito www.radio24.it, potete scaricare le puntate anche su podcast. Per comunicare con noi Radio 24 Italia in Controluce è il gruppo su Facebook e la nostra mail è controluce@radio24.it. Domani risentirete la mia voce alle 6.30.